Clatù, Verata. Fuoco alle polveri. Dai allora. Fatta. Fuoco alle polveri. Radio Bomba. Vana! Buonasera e benvenuti alla nona puntata di Fuoco alle Polveri. Eccoci. Ciao a tutti. Eccoci qua. Che gioia, oggi riusciamo ad andare in streaming. Direttamente. Allora, nona puntata come le nove muse dell'antica Grecia. Quali sono? Quali sigla! No, niente, praticamente niente sigla, abbiamo già mandata. Non ce ne frega un cazzo di come si chiamano le nove muse. In e realtà lo so. Lo sai, sì, eh? Sì, sì. Cioè, Wikipedia, mettami davanti. No, non ce ne frega veramente niente. A parte, dimmene una. Clio, poi la mia preferita è Euterpe, perché sembra un po' turpe. Vabbè. Senti, e qui che succede qui? Siamo in compagnie, varie compagnie. Plurime compagnie, abbiamo anche dei malati, purtroppo. Dei malati? Sì. Ah, dei malati, è vero. Abbiamo i malati, li salutiamo, che sono a letto, sì, per l'appunto malati. Sì. Una regia meravigliosa, uno smatto qua dietro e vari ospiti. Insomma, tutto a posto, tutto come a posto, sempre. Tutto a posto, tutto a posto. Senti, la scorsa settimana dicevamo di questo fantomatico Tot Morti. Sì. Che ha bisogno di un regolamento. Basta, perché è momento... di tutti i giochi alla fine dei conti, purtroppo. E quindi abbiamo pensato. E non siamo arrivati a niente. No, non è vero, siamo arrivati che questo è il regolamento all'incirca. Vai, spara. Ogni squadra ha tre candidati. Buono. Ogni morto, se lo pigli, vale un punto. Ok. Fin qui. Niente, semplicemente vince chi fa più punti. A parità di punti vince l'età. Chi ha fatto i morti con l'età minore vince. Quindi per esempio li becco. Vai. Tutti a tre. Sì, e bravo. Anche te li becchi tutti a Bravissimo. Tre. Quindi facciamo un punto a testa. Facciamo i tre punti a testa, eh? E sì, sommiamo tutte le età. Quello che ha il numero l'età minore. Quindi se io ho due trentenni e un sessantenne, te hai due ottantenni e un novantenne. Non lo fare difficile, bravo, io. Sì. Sì, esatto. Ho rischiato di incartarmi i esatto. numeri. E vinci. E, non niente, ci sono quindi, bonus. Allora, non ci sono bonus. Io ho pensato una cosa. Per ora non ci sono bonus, nel senso che non ci stiamo a impastare con i bonus. Però, certo. Per esempio, possiamo fare dei bonus personali. Ossia, tipo a me piacerebbe dare un premio a chi azzecca, per esempio, un morto ucciso da un animale. A me quella mi piace. Okay? Ok. Quindi metti che l'apo Elkan, per dire. Sì. Invece schianta, ok? E non schianta per abuso di sostanze. Come probabilmente succederà. Ma perché un cervo in corsa lo trebbia. Ecco, io personalmente darò un premio a chi ha preso la Poelcan. Va bene, okay? Facciamo la votazione. Quindi poi se vuoi puoi scegliere anche degli altri. Oggi quindi Roberto prende secondo me il bonus per acclamazione. Quindi bisogna scommettere anche sul modo in cui sul tipo di morte, sul no, modo in cui buono, oppure No, e semplicemente se una morte è particolarmente spettacolare e qualcuno qui della redazione vuole premiare questa spettacolarità, ci lasciamo la possibilità aperta, insomma. Sì. Bene, vi va? E c'è sì, un'altra sì, squadra, sì. C'è arrivata c'è un'altra una nuova squadra. Squadra, vai, leggi. Ruge, che ci manda la Vuelcan per l'appunto. Bob Dylan, ottimo. Ah, nessuno l'aveva detto veramente ancora. Nessuno aveva detto Bob Dylan. E anche un altro ha detto che nessuno aveva ancora detto, che è José Altafini. E che anche lui effettivamente non penso stia bene, cioè, giocava negli anni 60 a pallone. Ah, ecco, perché io non avevo idea. Eh sì, un giocatore di calcio brasiliano. Ok. E detto questo, possiamo sì, detto mandare questo? Il primo pezzo? Possiamo far mandare il primo pezzo, perché in realtà non siamo noi a mandarlo, ma è la regia. Pronti via. Wombat. Black Street. Botswana. Small time little league player Pop Warner. Rock corners with hot blocks that's drug infested. Supply suppliers, my money say thug invested. No disrespect to Duck Down Records. After this go round, a nigga looking for the exit. Peace. Sincerely Pyrex Pot Sean. Cookie cut it and spit it on Nari.com. The vet earner of stripes, the sket burner. Tears in my eyes when thinking the Hex murder. What up, Hex? I don't parlay with the crew, nigga. I don't wallay with the new niggas. Hardcore rap and Mary J. Blige records. That's right. The guard gon' snap, I'm waving the five reckless. Sean Price, the best rapper in Brownsville. Don't know me, by the time this song done, you clowns will. Hurt something, nigga. Know what I mean? Fuck out of here. Grown man rap, nigga. I get my son to fuck one of y'all young rappers up. Word to mother. Fuck out of here. What up, Eli? Where was I? Oh, yes. Sean Carter is nice, but Sean Price is the best. Sean gone. No Sean Dawn. Sean is a Dawn. I don't wear Sean John. Army suit, Blackberry brandy is Long John's. Matching cheese Tim's, you separate weed stems. Weed carrier, bulletproof vest tester. Glock and spray adjuster, left a rock away in Chester. Too old to rap, too young to whack. 10 fingers, 2 hands, my nigga, the guns clap. I don't like niggas no more. 8-figure dreams, nigga, but the figure is 4. These are words from a thousandaire. Selling crack in the peas, disguising some housing gear. I fucked up somewhere down the line, but I got my shit in order. The crown is mine. P, motherfucker. Fuck out of here. Sean Price, Kimbo Price, Mike Tyson. Go get all that shit. All that shit. And I punched the school buses. Ehi, che sta succedendo? Quei figli di puttana hanno vinto il processo e fanno una dimostrazione. Quali figli di puttana? Quegli stronzi del partito nazista. I nazisti dell'Illinois. Io li odio, i nazisti dell'Illinois. E via. Anche quelli dell'Ohio io sì, odio. Sì, anche quelli sì, possiamo andare, potremmo andare avanti all'infinito. Allora, finalmente, scusa, sono sì, entrato molto sei entrato entrante. A gamba tesa, sì. No, finalmente torniamo ad avere ospiti e una fantastica intervista. Vediamo se è fantastica. Sicuramente. Dobbiamo essere bravi. Dipende se intendi per fantastico, perché esatto, comunque è una storia tutto sommato tragica e che comunque ci coinvolge tutti. Quindi diamo il benvenuto ad Assia. Ciao a tutti. Introduciamo un secondo forse, nel senso che la scorsa settimana avevamo parlato appunto di quello che era successo all'occupazione dell'ex Aiazzone a Sesto Fiorentino, allo Smannoro, e però avevamo detto che non volevamo tanto approfondire noi direttamente da qui l'altra settimana, perché ci interessava più parlare con qualcuno che è stato sul campo negli ultimi tempi. Esattamente. E quindi abbiamo aspettato e chiamato e ci siamo. Ciao Assia. Ciao. Ciao. Movimento Dato per la Casa, quindi è una delle realtà, o la realtà, te lo chiediamo, che sta dietro a quello che sta succedendo a queste persone che hanno in questo momento subito o comunque patito, diciamo, questo incendio e quindi tutto quello che ne è conseguito. Volevamo appunto iniziare a chiederti un po' quello che è stato prima dell'evento, che poi è diventato un evento anche mediatico, però c'è tutto un percorso precedente degli anni passati qui che volevamo un po' sapere come sono andati, ecco. Allora, dunque, la lotta per la casa sicuramente è l'unica realtà che sta dietro, sta insieme anzi a tutto ciò che riguarda i rifugiati a Firenze, e la storia di questo gruppo in particolare di rifugiati risale a 15 anni fa, cioè parte di loro, diciamo così, sono arrivati qui a Firenze 15 anni fa conoscendo in modi più o meno traversi la lotta per la casa, e è stata l'unica realtà che ha cercato di supportare in qualche modo una lotta che è estremamente peculiare, perché quella della situazione dei rifugiati è estremamente particolare, in quanto avrebbero tantissimi diritti a livello di di legislazione italiana in quanto rifugiati politici, perché loro sono stati tutti riconosciuti come rifugiati politici in quanto sono scappati dalla Somalia, per cui avrebbero diritto a tante cose, tante tipologie di integrazione, diciamo così, una volta arrivati in Italia, che però ovviamente si dissolvono sempre nel nulla, che non hanno corsi di italiano, non hanno corsi di integrazione, eccetera, per cui dopo essere passati dal CPA, dal centro di prima accoglienza, vengono fondamentalmente buttati fuori e lasciati lì e fai un po' quello che ti succede, pare. Che succede? Esatto, per cui appunto la situazione è estremamente peculiare, la lotta per la casa è appunto, ripeto, l'unica realtà purtroppo che si occupa veramente di questa situazione e in particolare questo gruppo ha subito moltissimi sgomberi, ha fatto moltissime occupazioni nel corso di questi 15 anni, salendo anche tra virgolette alla ribalta dei favori mediatici durante diverse occupazioni. Nel 2011 è stata occupata via Slataper. Ok. Che adesso è stata presa dai servizi sociali e ristrutturata per i migranti, però sempre con le funzioni della cooperativa, per cui sempre in modi assolutamente esclusivi e discrezionali, peraltro, degli assistenti sociali. Quando poi nel 2014 furono sgomberati da via Slataper, perché comunque purtroppo le situazioni con i rifugiati sono sempre estremamente scomodi allo Stato e al Comune, per cui vengono sempre fatti degli sgomberi e anche abbastanza radicali e violenti, insomma, proprio per mandarli veramente via, la decisione è stata quella, per tentare di dare anche una sorta di pace a questo gruppo, di andare a Calenzano, appunto all'ex mobilificio Iazzone. Sicuramente la scelta è stata molto difficile anche per la lotta per la casa, perché comunque andando in un posto così lontano da Firenze, quindi dal centro un po' della certo. politica, si sono anche un po' relegati a una marginalità. Certo. Che questo però ovviamente non era una cosa che sarebbe durata comunque a lungo, perché l'idea ovviamente era quella di continuare il percorso, eccetera. E poi purtroppo è successo quello che è successo, ma vogliamo anche ricordare peraltro che l'anno scorso fecero una cosa che non è mai stata fatta, a mia memoria, da parte di Enel, che andò con le ruspe a staccare i cavi della corrente okay. di ex Iazzone, e dove i rifugiati peraltro si dimostrarono veramente soggettivati alla lotta, perché fecero una cosa che i Siccobas ci ha messo molto tempo a mettere in piedi, ovvero si misero davanti alle ruspe per evitare che queste continuassero il lavoro. A spaccare tutto. Esatto. Per cui appunto, e poi siamo purtroppo arrivati a quello che è successo. Quello che è successo. Che appunto brevemente, se ce lo racconti, ma a parte magari appunto quella notte in sé è stato un incendio che è divampato dentro in una situazione comunque abitativa. Un cortocircuito, se non sbaglio, no? Sì, sì, sì, è stato un cortocircuito. Non è che si sono per sbaglio dati fuoco. No, no, assolutamente. Un incidente casuale. È che a causa del distacco della luce che c'era stato l'anno precedente, gli attacchi fatti alla corrente ovviamente erano assolutamente di fortuna. E con il freddo che stava facendo in quei giorni, ovviamente c'erano centinaia di stufette attaccate, per cui una evidentemente ha fatto cortocircuito, ed essendo una struttura quasi esclusivamente in legno, anche gli interni che si erano ricavati, le stanze che si erano ricavate, erano tutte fatte in pannelli di legno, per cui per bruciare ci è voluto veramente Buonissimo. Pochi secondi. In tutto questo delirio è morta una persona. Sì, che, la cosa più grave della morte di questa persona in realtà è stato il motivo per cui è morta, perché come appunto anche i giornali poi hanno riportato, volenti o nolenti, era Ali Muse, era rientrato, lui era uscito dal capannone ed è rientrato perché doveva andare a recuperare i documenti del ricongiungimento familiare, che ci aveva messo 2 anni e mezzo a prendere, per cui in realtà diventa, è molto, ancora più pesante, seppur già una morte era pesante. Ancora più drammatico. Esatto. Successivamente a questo la situazione è stata abbastanza difficoltosa anche la notte stessa, perché fondamentalmente Firenze, cioè il comune di Firenze, ha fatto orecchie da mercante, ha fatto finta che il problema non sussistesse, lasciando tutto quanto nelle mani di Sesto, che però ovviamente, essendo un comune di 40.000 abitanti, ha i mezzi che può avere, per cui ci siamo ritrovati con scene della protezione civile con 2 persone disponibili, con 4 ambulanze e basta, e con la protezione civile che arriva senza coperte e senza acqua e senza tè caldo. Per avere un tè caldo ci è voluto 3 ore e mezzo sotto nostre pressioni molto pesanti, perché poi insomma erano meno 4 gradi ed era 4 ore che eravamo fuori a guardare, a capire anche che cosa sarebbe successo la notte stessa, perché Sesto, appunto, Firenze appunto non ha dato risposte, per cui sembrava lì per lì che la notte l'avrebbero passata al gelo, così tranquillamente, mentre poi invece appunto tramite pressioni, anche tramite il sindaco di Sesto Falchi, abbiamo ottenuto addirittura due tende in uno spiazzo lì vicino, di cui peraltro una non aveva neanche la plastica in terra, okay, per cui hanno dormito nel fanghiglio praticamente, okay. Sono stati. Sì, sì, certo. E niente, poi il giorno successivo questo gruppo si è ridimostrato appunto come l'anno precedente, assolutamente combattivo, assolutamente con intenzione di non accettare più che altro prese in giro, perché appunto è 15 anni che stanno andando avanti, per cui sanno anche di cosa hanno bisogno veramente, per cui fondamentalmente l'unica cosa che stanno continuando a chiedere è una situazione non temporanea, okay. Che tutte le soluzioni che in ogni varia protesta che c'è stata è sempre stata l'emergenza freddo o comunque situazioni estremamente temporanee. Per cui niente, il giorno successivo siamo andati sotto la prefettura per protestare, per far sentire insomma che questo gruppo di persone non si era fatto intimidire dalla situazione, non erano stanchi di tutto, diciamo. E successivamente siamo andati, siccome sotto la prefettura non ci hanno fatto entrare, abbiamo trovato le porte sbarrate. Ma mentre tra l'altro c'era un tavolo... No, quello era sabato. Ok, ok. No, lì siamo andati semplicemente perché la responsabilità del prefetto. Okay. E niente, quindi appunto poi siccome nella prefettura non ci hanno fatto entrare, abbiamo trovato soltanto polizia e porte sbarrate, come succede sempre, siamo andati poi a occupare la mostra di Ai Weiwei a Palazzo Strozzi, sì, sì, che appunto ha fatto tutta una serie di lavori per quanto riguarda i migranti, tant'è che Ai Weiwei è venuto a sapere della nostra occupazione e ha risposto facendo addirittura delle interviste video il giorno successivo, riprendendo il problema dell'accoglienza in tutta Europa, in particolare in Italia, che comunque con il problema sbarchi eccetera ha problematiche ulteriori rispetto agli altri paesi. Per cui niente, dopo una giornata intera in cui siamo stati a protestare, siamo stati Ai Weiwei appunto alla mostra, abbiamo ottenuto per 4 giorni il palazzetto dello sport di Sesto Fiorentino, okay. Che ovviamente ora potete immaginare quanto un palazzetto dello sport sia caldo o accogliente, mm-hmm. Ovviamente è una situazione comunque veramente indignitosa, assolutamente indignitosa, con ancora la protezione civile soltanto di Sesto, la misericordia soltanto di Sesto, per immagino cui sempre... Poi... anche con tutti gli averi personali di queste persone, cioè tutti i beni personali di queste persone, probabilmente in parte andati sì, perduti in l'incendio. Purtroppo sì, chi stava al secondo piano ovviamente ha perso tutto, altri sono riusciti a recuperare altre cose, però quasi tutti hanno perso moltissimo quantomeno, per cui anche una situazione psicologica non delle migliori sicuramente. E poi il sabato invece siamo andati, quando c'è stato il COSP, il tavolo per l'ordine pubblico, siamo andati a protestare appunto sotto la prefettura fondamentalmente per cercare di avere il almeno di far entrare una delegazione di questo gruppo che potesse esprimere le proprie volontà fondamentalmente, okay. E ovviamente come al solito polizia e porte sbarrate. Okay. C'è stato anche un po' di bagarre lì sotto? Sì, sì, sì, c'è stato un po' di bagarre perché abbiamo comunque tentato di entrare perché ci sembrava la cosa più giusta, perché che loro decidessero per i ragazzi senza che loro potessero entrare ci sembrava una cosa completamente fuori dal normale, insomma. E poi niente, fondamentalmente in questi giorni siamo riusciti a ottenere addirittura appunto l'emergenza freddo, hanno millantato, questo tavolo millanta perché ha proprio millantato l'esistenza di 90 posti in emergenza freddo, e specifico che l'emergenza freddo significa dalle 8 la sera alle 7 la mattina e poi fuori tutto il giorno, per cui è semplicemente una struttura per dormire, un dormitorio, esatto, sparsi in tutti i comuni della provincia, per cui divisi a 2, 3, 5 e basta, per cui ovviamente... Che tra l'altro penso sia problematico anche perché da quanto ho capito negi ultimi appunto 15 anni che ci dicevi queste persone, anche se probabilmente non saranno proprio sempre le stesse, saranno spostate, sono tendenzialmente rimaste insieme, quindi sarà formato anche una sorta... Di comunità che non so se ha intenzione di separarsi sotto soprattutto una proposta da parte del comune piuttosto della prefettura piuttosto che di chiunque, appunto sulla temporaneità che dicevi. Esatto, prima. Loro ovviamente sono consci del fatto che una soluzione non temporanea tutti insieme è praticamente impossibile, per cui se gli dessero una soluzione non temporanea sarebbero comunque, cioè sarebbero ovviamente okay. disposti a dividersi okay. in gruppi, però ovviamente disposti a dividersi, però il problema fondamentale è la temporaneità delle cose, per cui l'emergenza freddo fino a marzo non è una soluzione, perché cioè, fra due mesi, siamo un mese e mezzo e sono di nuovo per strada. Sì. Per cui niente, questo è stato quello che è stato proposto, e quando gli assistenti sociali sono andati a proporlo, questo gruppo di ragazzi si è rifiutato in blocco. No, in realtà no, hanno mandato 5 delegati di loro okay. a parlare, i quali poi hanno detto che o facevano una proposta a tutti insieme, oppure loro non avrebbero accettato, cioè non avevano neanche ascoltato, perché la proposta degli assistenti sociali era quella di parlare uno per solo, uno. Ok. Per dividerli, sì. per prenderli uno per uno e per fare pressioni uno per uno. E loro ovviamente si sono assolutamente rifiutati, non hanno neanche sentito la proposta, perché gli assistenti sociali a quel punto si sono rifiutati di farla. E quindi poi niente, il giorno successivo abbiamo deciso di occupare. Ovviamente l'occupazione non è una soluzione, nessuno sostiene che l'occupazione sia una soluzione, specialmente loro non lo sostengono, perché dopo 15 anni si non ce la fanno più. Il cazzo, esatto. Immagino. Però l'occupazione è un metodo di rivendicazione, è un modo in cui, tramite il quale tu riesci a non essere sacca di marginalità e in cui riesci a portare il tuo problema ai livelli alti, tant'è che infatti è stato richiamato un altro tavolo, subito dopo l'occupazione è stato chiamato un altro tavolo che ha proposto le stesse identiche cose. Bene. Per cui ovviamente non c'è strada. Evidentemente, per in questo momento non c'è strada. Questa nuova occupazione, diciamo, c'è stata un po' di polemica intorno a questo, soprattutto perché l'edificio è dei gesuiti, quindi in realtà forse appunto la scelta non è stata malvagia, nel senso che i gesuiti, forse almeno da quello che traspare poi direttamente verso un'opinione pubblica media della città, è che un istituto religioso ha qualche difficoltà o dovrebbe avere qualche difficoltà ad attuare o a permettere che venga usata la forza, o comunque la forza certo. bruta. Certo. La scelta non è stata non è stata legata strettamente ai gesuiti, okay. piuttosto al palazzo in sé per sé, infatti. Alla storia che ha, eccetera, abbandonato da 8 anni e più che altro anche per le dimensioni. Okay. Però sicuramente i padri gesuiti, che si sono anche mobilitati da Roma per questa cosa, ovviamente con questa occupazione, stanno chiedendo soluzioni reali appunto al comune, al prefetto, che riescano a trovare delle cose e siano delle soluzioni. Loro hanno sostenuto il fatto che ovviamente anche loro non sono soluzioni, loro non ci possono dare una soluzione, però capendo il problema in qualche modo si deve fare. Cioè, esatto, sicuramente fanno più pressione loro di noi, purtroppo. Per cui. Sì. Sono padri e sono gesuiti. Le esatto. due cose insieme sono fortissime. Esatto. E c'hanno anche il Papa, no? Il Papa è gesuita. Sì, sì, vero. Papa è gesuita. Sì, sì. E quindi niente, siamo a questo punto praticamente ad oggi. Nei prossimi tempi cosa ti aspetti o cosa succederà, che siamo sicuri? Allora, insomma, un dato molto importante credo che sia il dato politico che è emerso da tutta questa situazione, che purtroppo è stato scatenato fondamentalmente dal fatto che ci sia stato un morto, per cui tutta l'attenzione mediatica che abbiamo avuto a livello nazionale e internazionale, perché ricordo che è intervenuto anche l'UNHCR dell'ONU sulla questione, per cui c'è stata una rilevanza estremamente alta su questo argomento, purtroppo appunto è stata fondamentalmente perché c'è stato un morto. Però la cosa importante secondo me è che è stata aperta una falla gigantesca, una critica gigantesca a tutto ciò che riguarda l'accoglienza e su come si sta concependo il sistema dell'accoglienza, sia da destra che da sinistra è stata aperta ovviamente, esatto. perché come sempre queste cose. E tra le altre, la contemporaneità con la proposta di legge del ministro degli interni Minniti è stata anche abbastanza fatale da questo punto di vista, perché la proposta di legge sarebbe quella di un indurimento, scusate, delle leggi rispetto all'accoglienza tramite la presenza di CIE in ogni regione, l'eliminazione del ricorso in caso di diniego della richiesta d'asilo okay. e l'obbligo per i migranti di lavorare per i socialmente utili. Sì, scusate, per lavori socialmente utili. Sì, no, ma si è capito benissimo. Molto ok, importante. Questa è la proposta di legge, è una proposta sì, per il momento sì, la proposta di affari costituzionali. Ok, E, per cui, appunto, il dato politico sicuramente è stato estremamente importante, perché si è aperta proprio una falla gigantesca. Più che altro siamo riusciti a dimostrare la totale insipienza da parte delle istituzioni di rispondere a una qualsivoglia emergenza. E dall'altra parte anche il fatto che il problema è che questo viene trattato esattamente come un'emergenza, cosa che ovviamente non è. A parte la situazione di queste 100 persone, in generale il problema della migrazione non può più essere considerato come un'emergenza, no, ma come uno status quo. Sì, certo, assolutamente. Per cui si è aperta questa falla estremamente ampia. Proprio per questo, infatti, domani sera alle 6 alla nuova occupazione in via Spaventa faremo un'assemblea in merito a questo, in merito alle politiche dell'accoglienza e a come riuscire a entrare nella contraddizione delle politiche dell'accoglienza per rompere definitivamente il sistema meccanico che si è instaurato. È un'assemblea pubblica, scusi. Sì, sì, è un'assemblea, okay, pubblica. E sabato invece avete... Sabato invece faremo un corteo, questo invece diciamo più relativo a quello che è successo ai somali, eccetera, e che servirà anche un po' di solidarietà per tutto il percorso dei migranti, per non lasciarli sempre soli, diciamo così, perché alla fine sembra sempre un po' che ci sia una situazione di, siccome è molto peculiare la situazione, siano sempre un po' lasciati a se stessi, mentre invece crediamo sia anche molto, molto importante che tutti portino la propria solidarietà, anche da realtà, certo, diverse, certo, sempre con il tema ovviamente dell'accoglienza e più che altro delle cooperative. Il vostro appello che avete fatto per coperte, già che c'è stata risposta? Sì, c'è stata una buona risposta da gente, diciamo, anche persone abbastanza normali, diciamo così. Sì, al di fuori del movimento. Esatto, al di fuori dei movimenti politici in senso lato c'è stata una buona risposta, per cui... Ottimo. Comunque stiamo ancora cercando tanti materassi. Se... Ok, materassi quindi, sì, principalmente. Materassi e stufe, okay, fondamentalmente, okay, è quello di cui hanno più bisogno per adesso. Ok. Perché lì non c'è niente dentro la struttura? No, no, è stato trovato poca roba, no, qualcosa. Ok. E niente, se vuoi aggiungere qualcosa... Io sinceramente no, mi sembra che abbiamo detto diverse cose, che questo è un percorso che arriva da... è una situazione che arriva da lontano. Che è un discorso più ampio. E soprattutto, e poi appunto, questo è stato un caso, è un caso... E è stato un caso mediatico appunto per le cose che abbiamo detto, e rimane un problema, cioè, rimane un problema. Viene appunto, sono molto d'accordo, viene trattato tutto questo, questo tema come emergenza, come una cosa da risolvere tendenzialmente. Poi la tendenza è quella che sembra appunto quella di chiudere poi le persone dentro delle sorte di gabbie, e questo ci fa un attimo pensare. Ovviamente l'unica cosa che mi sento di aggiungere è che spero che questo caso serva poi a appunto aprire veramente una falla e a portare avanti un discorso appunto estremamente più ampio. Esatto, sì, sì. Buono, grazie Asia. Vi ringrazio. Grazie mille, sì. Ti salutiamo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. E a questo punto ci prendiamo del tempo per riflettere, e intanto il nostro Andre ci manda un pezzo. Little stranger, and I'll give you a piece. Give me a danger, little stranger. ti succhierò l'anima! Vieni a prenderla. Grande. Non male. Grandissimo. Non male. E... oh, bene, molto bene. Abbiamo ascoltato veramente un'ottima... oh, un sacco di informazioni. Alla fine, come l'avevi definita prima di farla l'intervista che dovevamo fare? Magica, meravigliosa, com'era? Fantastica. Fantastica, è stato fantastico. Abuso di questa parola, forse. Ok, no, va bene, va bene. Poi fotonica, fantastica, io abuso anche di fotonico. Un certo altro mondo. E, senti, che si inizia con le rubriche, perché i nostri rubricanti, sì, in tutto ciò ci sono e non ci sono, sono un po' di qua, un po' di là. Sì. Però sono... Sono tanti e c'hanno voglia, quindi bando alle ciance. Ciancio alle bande, sì. Ciancio alle bande, sigla. Cos'è che ci buttaste per mamma con tanto amore? Dubbi e sicure. Mamma mia, dammi 100 lire. Eccoci. In America. Ciao. Voglio andare. Ciao Nico. Buonasera, buonasera. Ciao, viva Nico. Fuoco alle polveri, viva Radio Wombat. Come sempre. Come sempre, viva viva. Come sempre. Insomma, oggi porto due pezzi, non pezzi vecchi come quello che stiamo ascoltando, che è una canzone popolare, chi la conosce. E oggi mi sono informato, mamma mia, questa la versione che stiamo ascoltando è di la canta Gigliola Cinquetti. Questa canzone è della fine dell'Ottocento, wow, e fa riferimento a un'ondata di migrazione italiana, però... che veniva dalle campagne del settentrione, non quella che più meridionale, invece si conosce quelli che, certo, sono andati in America del Nord, ma questi andavano in Argentina, in Brasile. Ah, sì, mm, l'ho studiato, sai. E beh, io no. Insomma, il pezzo che porto oggi è un pezzo che parla un po' di questo senso di esodo, di fuga, perché, diciamo, il tema della mia rubrica di oggi è la provincia. Io già... quando si parlava l'altra volta che parlavo, avevo portato il pezzo di Ivan Graziani, ci Fuoco sulla collina, della... parlavo un po' della mia idea di provincia italiana, sì, quest'Italia, città fatta di province. Il pezzo che porto oggi si chiama proprio Provincia e fa parte di un album che si chiama Provincia, quindi... Okay, il cantante Provincia. Il cantante si chiama Provincio, no, il cantante si chiama Giampiero Anelli, in arte Drupi. Che, okay, se lo dite le vostre mamme si squagliano, almeno se le vostre mamme si sono fatte negli anni 70, si sono fatte negli anni 70, okay. È facile, no? Provate, conosceranno Drupi, che è questo belloccio, questo bell'imbusto di Pavia, che è quello che ha fatto Sereno e lalla, o anche Eri piccola, okay, e fragile, dai. Il nostro pubblico è molto piccolo, fragile, esatto, di noi. Diciamo, al di fuori delle storie, della storia singola di Drupi, che non è così accattivante, tra l'altro vive ancora, quindi potrebbe essere grande, un possibile candidato al Toto Morti. O anche un possibile, pensateci, ascoltatore. Pensateci a Drupi, ragazzi, nessuno se lo aspetta, eh? Magari sarebbero soldoni. Mi sa che c'è un po' d'anni ora. Eh? Mi sa che c'è un po' d'anni ora. Sì, appunto, dico. No, dici che no, qualcuno se l'aspetta. No, sì. Non lo so. Comunque, diciamo che quello di cui voglio parlare oggi è un po' il senso di questa provincia che viene, che si sente da lì. Diciamo, questa mia idea di Italia fatta di province, province in cui c'è una grande legge sociale taciuta, c'è una realtà fatta sicuramente di tanto rispetto e di una sorta di assistenza reciproca, di mutuo soccorso tra i cittadini, ma anche di grandissime invidie, di grandi odi, di dogmi intoccabili e invalicabili, e che quando vengono superati, come per esempio quello di andarsene per cercare, sì, fortuna, si viene banditi, si viene... tutti e due i pezzi che portiamo oggi, che porto oggi, sono su questo tema. Questo qui, che è appunto Provincia, è un po' negativista, dalla parte di uno che evidentemente si scopava una tipa che poi è voluta andare lontano, se la scopava su una 500, lo dice proprio, okay, il pezzo, in 500 blu nel buio mi lasciavi fare. E evidentemente a lei non è andata bene questo tentativo di fuga dalla provincia. E lui dice nel ritornello: un anno di città fa male a quest'età, okay, sei sempre bella eppure sei cambiata. È bellissimo, è molto... Sentiamo questo pezzo e poi ne chiacchieriamo un po' di più. Va anche bene. Perché non riesco a capire bene se il suo è un vero giudizio negativo di confronti di questa qui. Anche perché il pezzo è del 78. Ok. È del 78. È la provincia, quella di campagna, quella davvero rurale, che era la provincia degli anni 50, fino agli anni 70 era rimasta abbastanza così, però stava sempre più scomparendo, sempre più scomparendo. Ho messo questo pezzo in sottofondo, cioè Mamma mia dammi 100 lire, perché è proprio la storia di una persona che deve emigrare, che vuole emigrare per andare a trovare fortuna, e poi muore, tragicamente. La mamma gli dice non partire, i fratelli dicono mamma falla partire, e muore. Ecco. Appunto. E poi dice mia mamma aveva veramente ragione, ora sto marcendo tra i vermi. Dice proprio cose così. A posteriori, un po' più. A posteriori ci avrebbe pensato prima, quelle 100.000 lire ci avrebbe comprato. Sentiamo. Il fumo. Provincia di Drupi del 78, sentiamocela. La 500 blu che non frenava più, e tu col golf arrotolato in vita, i tuoi discorsi strani di vita piene mani, e intanto si scioglieva la granita. Tu mi dicevi piano, mordendoti la mano, un giorno l'altro sai scappo lontano. Le strade con i sassi, i portici un po' bassi, e io che sorridendo ti perdevo. La vita di provincia pareva senza tempo, ma quanta noia ti rodeva dentro. Pensava tu a ballare, poi mi lasciavi fare al buio sulla 500 blu. Un anno di città fa male a quest'età, sei sempre bella eppure sei cambiata. Cantiamo la canzone, abbiamo parlato appunto di stranieri, ma noi cantiamo la canzone dell'italiano per eccellenza. In tutto il mondo il cantante italiano più conosciuto è Adriano Celentano, anche in Russia. Allora, bene, siete pronte? Facci questo accordaccio. Laddove c'è la paura, bene, c'è quattro. Questa è la storia di uno di noi. Eccoci. One, due, tre, quattro. Grande, ma quello è Pupo. È Pupo, grande. È chiaramente Pupo. È chiaramente Pupo. Allora, e 1, 2, 3, 4 dovremmo usarlo sempre. One, due, tre, è forte, quattro. È forte. Lo ma se vedete il video da cui ho preso questo audio, è pieno di ucraine felicissime di avere Pupo a due passi. Meraviglioso. Allora, ho messo questa canzone che è Il ragazzo della via Gluck, perché qui anche si parla di esodo, no? Il ragazzo della via Gluck è tanto triste che se ne doveva andare dalla sua provincia. E anche il pezzo che porto adesso, che è un pezzo di Renatone, di Renato Zero, e si chiama Un uomo da bruciare, fa parte di un album che si chiama Trapezio, è uscito in un 45 giri insieme a Madame. Chi conosce Renato si gasi, perché sono due canzoni meravigliose. E anche qui appunto si parla di esodo dalla provincia, ma qui la provincia assume una connotazione, diciamo, meno reale, meno pratica geografica e più concettuale di vita. L'idea della provincia, ovvero l'idea di tranquillità che si fonda e si basa su una vita, diciamo, regolata, regolare, e preordinata, già gestita, cioè trovati un lavoro, vivi la tua vita, trovati una moglie, facci un figlio, campa i tuoi figli e vivi un po' questa morte spirituale. Almeno l'idea che questa fosse la morte spirituale è quell'idea che è arrivata poi negli anni 70, dagli anni 60 in poi è venuta a crescere tra i giovani che si vedevano il mondo che cresceva, che gli cresceva intorno, ragazzi che avevano la possibilità di costruire un futuro, di cambiare il mondo, almeno ci credevano, e i poveri ragazzi che nascevano nelle città di provincia ancora agricole, diciamo, non avevano... Comunque ci rimanevano incastrati. Rimanevano incastrati, sognavano di scappare e si trovavano spesso in quelle situazioni, appunto, come abbiamo sentito prima e come si sente anche qui nel ragazzo della via Gluck, che comunque questo ragazzo tanto triste, tanto che piange, però poi alla fine se ne va, fa successo, torna lì e può ricomprarsi la casa in cui stava. Quindi in realtà, se magari gli avessimo parlato a questo ragazzo, avrebbe detto: cazzo, tornassi indietro lo rifarei. E questo... Una storia felice comunque. Sì, questa. Un grande ipocrita è il ragazzo della via Gluck, secondo me. Lui, non Celentano, che alla fine ci aveva visto lungo. Insomma, questo tipo di fuga è quella che Renato cerca di a cui, che cerca, cioè Renato cerca di spingere, diciamo, i suoi ascoltatori, i suoi giovani di provincia a fuggire, dice: scappa, fuggi, anche perché quella vita a cui tu aspiri, che è una vita di sicurezze, una vita appunto di sicurezze che segue le regole della provincia, che segue le regole del posto in cui sei nato, è un premio che marcirà, è una vittoria che non è una vittoria. Infatti è bellissimo perché lui dice: avrai questa vita, l'avrai, ma lo dice come se fosse una minaccia, cioè speraci ancora, fidati che poi la avrai, però cazzo se te ne pentirai. E infatti dice: scappa, fuggi e lascia qualche cosa in te, e non lasciarli fare, non diventare un uomo da bruciare. Vi lascio a questo pezzo, senza che ci risentiamo dopo il prossimo pezzo. Scelto? Sì, così, vabbè, perché tanto è una fuga a cavallo, tanto ci risentiamo nel corso della puntata, sì, ma... Così, ascoltate, viva Renato Zero, sentitevelo sempre, di sempre. Più... Viva Renato Zero e questo pezzo meraviglioso. Poi tra l'altro ci sono delle cose sia qui che nel pezzo che abbiamo sentito prima di Drupi, che tra l'altro volevo dire si chiama così perché Drupi, si sì. chiama così perché era un folletto che lui aveva interpretato in una recita tipo alle elementari, si era innamorato di questa persona, ha deciso di darsi questo nome d'arte. Dicevo, mi piacciono entrambi perché hanno, per quanto vogliano essere un po' poetici, hanno quelle... cioè parlano, che ne so, di cibo, hanno quei modi di scadere nella realtà che mi piacciono moltissimo. Anche qui il protagonista della canzone va a lavorare in un negozio di alimentari, dice: vendo il prosciutto, vuole il formaggino, capito? Fa molto ridere da questo punto di vista. Evviva comunque, viva Radio Womba, a te fuoco le polveri. Grazie, e Nico, sentiamoci bello, un uomo da bruciare e sentiamoci un uomo da bruciare di Renatone. Alla prossima. Ciao Nico. Ciao. Thank you. adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale. Ti sentirai più forte, un uomo vero, oh sì, parlando della casa da comprare, e già, e lei ti premierà offrendosi con slancio. L'avrai, l'avrai con slancio e con amore. L'avrai, ma tu non sai il prezzo che dovrai pagare. Scappa, fuggi e salva qualche cosa in te. E non lasciarmi fare, non diventare un uomo da bruciare. Profumo di cose vere, di cose pure di libertà. Oh no, non domandarti dove, come, come trascinerai la vita tua, con chi cancellerai il tuo nome, per chi? Due etti di prosciutto, sì signora, è ancora a letto con la febbre, il suo bambino. Peccato, vuole anche il formaggino. La vita dietro un banco a costruire un avvenire che le possa dare la sicurezza, un'auto, qualcosa da invidiare. L'avrai, l'avrai, l'avrai con slancio e con amore. L'avrai, ma tu non sai il prezzo che dovrai pagare. Scappa, fuggi e risalva qualche cosa in te. E non lasciarti fare, non diventare un uomo da bruciare. Direttore, non sono quel tipo lì e non gli permetto nemmeno di pensare. E questo era Due pezzi core. Bello. Due pezzi core, sempre bellissimo. Sempre sì, sempre interessante. Secondo me ci stava anche un sacco bene un po' il tema di oggi dei migranti. Dai, dai, sì, certo, no? Assolutamente. La provincia che chiude, che ti chiude in una gabbia un po', come poi è il non essere accolti in modo giusto. Sta un po' nella difficoltà di stare nei posti dove forse non si è nati, nel senso che comunque appunto sono sì, esperienze problema variegate negli ultimi 5.000-6.000 anni. Vabbè, certo, che la storia dell'uomo è una storia, però, di migrazioni, di appunto, popoli erranti. Quindi è una problematica dell'umanità, direi. Sì, sì, sì. Il problema sono le frontiere, come sempre. E infatti abbiamo avuto, c'è stato poco fa, l'altro giorno, in Polveriera, proprio l'evento tenuto Rhino Border sì, a Firenze. Bello, tra l'altro. Io sì, mi sono affacciato, molto bello, proiettavo esatto. Un documentario che appena avremo il link, perché non è ancora disponibile sì, non online. Sì, stiamo trovando un link buono. Però era un bel documentario su quello che è successo quest'estate a Ventimiglia, quindi quando, dopo che la Francia ha chiuso il confine appunto di Ventimiglia tra Francia e Italia, sono successe un bel po' di cose molto di cui i media non parlavano se non in alcuni quando tangenti. La tensione si è alzata come al solito sempre in una narrazione di emergenze, ecco. Sì. Quando si parla di emergenze ci siamo tutti. Comunque sempre una narrazione parziale, mai globale. Vabbè, no? Quello è sempre tutto una narrazione parziale, forse. E appunto questo documentario, appunto, appena avremo lo mandiamo, perché cioè non lo mandiamo da qui, ma vi diciamo dove trovarlo, perché era molto interessante. Sì, assolutamente. Ci sono anche invece degli eventi qui a Firenze prossimi giorni. Nei prossimi giorni. Dici un po', vai. E quindi, allora, diciamo che un tema caldo che verrà trattato alla fine di questo gennaio è tutta la questione del Kurdistan. In particolar modo giovedì è l'anniversario. Dovrebbe, sì, mi sa che venerdì, che è il 27. Infatti tutte le iniziative a Firenze sono intorno a quei giorni, quando poi le spazi hanno l'anniversario della liberazione cubana. Sì, esatto. Tra l'altro, appunto, tutta la questione del Kurdistan, questa è una ricorrenza, ok? È una ricorrenza di una vittoria in cui appunto Kobane è stata liberata. Non penso che sia tanto su tutti questi eventi che ci sono, non siano tanto sulla ricorrenza in sé, ma un'occasione per parlare di una situazione che è in continuo mutamento, come ci continuano a ripetere tutti quelli che si occupano di questo. Che è ben lontana dal concludersi, per cui... Molto ben lontana, e tra l'altro è cambiata tantissimo nell'ultimo anno. Addirittura appunto chi interviene in quella regione, la guerra che si sta svolgendo in Siria e tutto quello che sta succedendo, cambiano le alleanze internazionali giorno per giorno, quindi è una situazione molto complessa, e è l'occasione questa semplicemente per parlarne e approfondire. Sì, anche per parlare poi di quello che c'è all'interno poi di tutta la lotta curda, perché appunto ci stanno anche sperimentando, no? Ne abbiamo parlato forse già in trasmissione, comunque io mi ricordo un'altra iniziativa che c'è stata in Polveriera, appunto stanno sperimentando anche forme di socialità differenti, di organizzazione della società di rapporto fra uomo e donna, ma in generale fra individuo e individuo, che sono molto avanti in realtà. Sono molto avanti. Quantomeno è appunto molto interessante studiare come una situazione, una zona di guerra feroce, sia stato in questo caso qua un momento in cui dei popoli, pur con religioni non diverse, diversissime, e con anche lingue diverse, tutto diverso, siano riusciti attraverso una sorta di federalismo democratico a creare un embrione di una società che fa diversi passi avanti, diciamo. Sì, che fa invidia. Poi chiaramente si deve anche sempre contestualizzare, comunque è un momento di emergenza, di guerra, per cui non puoi trasportare, no? Fare un copia e incolla nella nostra società. Cioè, no, assolutamente, figuriamoci. È un percorso invece di... interessante da guardare. Di analisi da approfondire. Quindi come possiamo portare avanti questa nostra riflessione? Ci sono due eventi. Un evento in Polveriera giovedì 26, che affronterà appunto... insomma, la ricorrenza in sé e affronterà il problema. E hai altre notizie? Sono presenti diversi compagni dal Kurdistan, direttamente anche da Kobane, a parlare appunto di quello che sta succedendo. Esatto. E poi invece il 28. Il 28 al CPA. Sempre su una giornata dalle 18. Interessante, perché penso che mi sembra che sia presente uno degli avvocati di Ocalan, leader storico Mahmoud Sakar, che magari ci dirà anche della situazione di Ocalan, che è abbastanza incredibile, ecco, una prigionia Ocalan lunga ormai penso più di un decennio. Esattamente, poi c'è anche un membro del Congresso Nazionale Curdo. Ok. Quindi insomma, personaggi che l'hanno vista, vai. Giornate interessanti a giro per la città. Sì, non perdetevela assolutamente. Bene. E possiamo dire anche che ore sono? Le 5:30, è un po' l'ora della merenda. Sì, è l'ora della merenda. E quindi abbiamo una soluzione per tutti? Abbiamo una soluzione per tutti, sì. Chi ce la racconta? Lillo Birillo. E, però prima di partire con le succosità di Lillo Birillo, un ultimo aggiornamento, appunto, come vi abbiamo detto settimana scorsa, lunedì. Ok, sì, ops. Vai. di una nuova trasmissione che partirà, quando partirà? Partirà domani. Eccolo. Più o meno. Ciao. Per quest'ora. Già sono le 5 e mezza, quindi siamo già in piena intervista domani per quest'ora, quindi dovrebbe andare bene, ma si certo, spera. Certo. Vuoi anticiparci qualcosa? Se sì, chi è l'ospite? Sì, l'ospite. Allora, l'ospite è un mio amico di giù, della provincia di Catanzaro, manca a farlo apposta, quindi si collega anche al discorso della provincia. Grande. Praticamente loro, lui, mi verrebbe da dire lui, però a dire la verità adesso sono in due, quindi loro sono praticamente il giardino di Armida. Si chiama così. Si chiama così. È un duo acustico, elettroacustico, diciamo. E niente, domani ci faranno saranno sentire anche qualcosa, qua. Sì. Sì, allora inizialmente ci faranno sentire qualcosa, tipo il primo pezzo ovviamente sarà loro, poi altri due o tre pezzi penso che comunque di loro li mettiamo, però anche ci saranno vari pezzi magari di persone che hanno influenzato e aiutato l'artista. Fighissimo. Allora direi che ci sentiamo domani. Sì, ci si vede domani, dai. Allora, l'orario, ripetiamo. Allora, domani dalle 5, dalle 17 quindi, alle sì, 18. Perfetto. Siamo qui. Perfetto. Allora, collegatevi su come Wombat, assolutamente. Assolutamente, come tutti i giorni, direi. Come dovete fare 24 ore di 24. No, non è vero, non fatelo. No, no, non vi allenate. Trasmissione. Adesso Lillo, possiamo magnà? Possiamo finalmente magnà, anche se in realtà poi appunto come sentirete è una cosa lunga, un però per far merenda, però per la merenda per di domani. Per passare la fame. Sì, sì, dai. Lillo. Ciao Lillo. Ciao, buonasera. Io so già cosa ci vuoi dire e sto già sbavando. Impastillo Sbirillo torna. La nuova... È un'edizione speciale dovuta a tutta una serie di circostanze particolari che mi portano oggi a raccontarvi la ricetta di una cosa buonissima, di una cosa che viene mangiata solitamente tradizionalmente in questo periodo, cioè per l'inizio del carnevale, durante il carnevale. Va bene, non so voi che infanzia avete passato, ma io a carnevale mangiavo le frittelle di riso, dette anche frittelle. Sì, anche voi te sì, le mangiavi? Sì, no, te le mangiavi. Tantissime. Guarda, c'è la mia bisnonna che faceva i cenci. I cenci. I cenci si dovrebbero fare la prossima volta. Sì, fa due cose carnevalesche. Ok, frittelle di riso, dette anche frittelle di San Giuseppe, perché San Giuseppe, giusto, quando mi ricordo neanche, comunque deve stare in questo periodo. All'incirca, per forza. Bene, che cosa vi serve? Mezzo litro di latte, 100 grammi di riso, un po' di burro, un po' di zucchero, un po' di sale, della scorza di limone, un po' di rum, un po' di farina e le uova, ve l'ho dette, tre uova. Ok. È tutto un po', poi è tutto un po' perché naso, sì, esatto, è perché... tutto scritto dietro mini cucitrice con punti. Sì, sì. Ho preso degli appunti. Perfetto. Allora, quindi prendete mezzo litro di latte, va bene? Lo mettete in una pentola, lo mettete sul fuoco a cuocere con i 100 grammi di riso. Dovete fare uno stracotto, deve essere uno spapponcello incredibile, quindi deve cuocere molto. Durante la cottura aggiungete una noce di burro. Una noce di burro si fa con un cucchiaino. Buona. La strisci sul burro e viene fuori la noce. Un pizzico di sale e la scorza di limone. Fate cuocere tutto. Il riso assorbirà tutto il latte. Diventeranno, direi, morbidissimo. Un papponcello. Buono, uno ma tipo all'incirca in quanto tempo? Dipende. Ci vuole. Anche un'oretta ci può volere. Ci può volere anche un'oretta. Vabbè, ne varrà la pena. Un po' meno, fra una mezz'ora, 40 minuti, 45 okay, minuti, una cosa così. Poi, una volta che tutto è ghiaccio, ci aggiungete un cucchiaio di rum, 3 rossi d'uovo e 50 grammi di farina, va bene? Per tenere un po' tutto insieme, si mescola ancora bene, questo è già il ghiaccio, già abbiamo fatto freddare. Tenete conto che per far freddare 100 grammi di riso ci vuole un pochino, quindi ci sta che 3 ore potete aspettare. Quindi è una cosa che va fatta con calma, ci vuole, insomma, magari la fai la sera e le fai il giorno dopo. Esatto, mescolate bene e poi fate riposare. Fate riposare ancora, lasciatele lì, fate il giorno dopo, perché poi il giorno dopo c'è solamente da friggerle. cioè da friggere, cioè prima di aggiungerci i tre chiari d'uovo, perché abbiamo separato, cioè abbiamo messo solo i rossi dell'uovo, okay. Bene? E li aggiungiamo normalmente così? No, li montiamo, ecco. Li montiamo, vedi. Montiamo bene le tre chiare, le mescoliamo piano piano per poi non disfarle, e una volta che abbiamo fatto questo sono pronti da friggere. Cosa facciamo? Con un bel cucchiaino prendiamo una cucchiaiata di questo impasto e lo versiamo in abbondante olio bollente. Tenete conto che le frittelle devono galleggiare. Ah, quindi deve essere abbondante. Okay. E olio di semi, va bene anche l'olio di semi, sì. Ne fai poche alla volta. Sì, è una padella, tieni conto che sì, ce ne stanno. Le prime di solito si disfano un pochino, poi dopo, quando l'olio è a temperatura, rimarranno integre, prenderanno un colore marroncino, sì. Va bene, un marroncino chiaro, a quel punto sono pronte. Voi le togliete, dovete farle scolare molto bene, nel senso che le mettete o in della carta assorbente stese, certo. Su un, o la carta quella gialla o anche sullo Scottex, le fate scolare bene all'olio, le rinvoltate, le rigirate in un ciotolino con un po' di zucchero e sono pronte, ve le sgranate. Boia. E ne mangi 2000. Ne mangi 2000, poi, fai, poi ti senti male. Se volete fare dunque, aspetta, c'erano un paio di cosette. Se volete fare ci sta l'uvetta, bene, se volete potete aggiungerci l'uvetta. È vero, l'uvetta, sì, sì. L'uva passa, sì, esatto, sì. La lasciate a mollo, la fate rinvenire un po' e l'aggiungete all'impasto insieme, lo potete mettere, insomma, o prima o dopo, nelle due fasi. E se la volete fare vegane, attenzione, perché il latte di soia e il latte di riso potete farlo, cioè quindi dovete sostituire il latte con il latte di soia o il latte di riso, potete sostituire il burro con la margarina, le uova no. Le uova non ce le mettete, quindi verranno un po' meno saporite, il latte non basterà mezzo litro perché essendo più acquoso ce ne vorrà di più. Giusto. Però si può fare, è una buona alternativa. Si può fare. Bene? Ciao Lillo, grazie. Ciao. Grazie. Alla prossima. Riso al forno con pomodorini di guarnizione. I pomodorini hanno questa tragica caratteristica: fuori freddi, dentro palla di fuoco a 18.000 gradi. E questo me lo pappo io. Bellissimo. Eccezionale. E appunto sulle, tra l'altro in tema del riso, delle frittelle, meravigliose frittelle che appunto sono la merenda. Se riusciamo a fare la cena, vi proponiamo anche la cena forse, addirittura. Sì, assolutamente. Detto questo, dopo la bava alla bocca, ci sono situazioni alle nostre spalle, per cui vogliamo dare voce. Direi. Super voce voci. Un po' la novità del giorno, dai. Diciamo che è la novità del giorno. Il nostro pezzo live. Chi c'è? Evviva. Mi sentite? Sì. Oh, buono, perfetto. Un bel dentro una caverna. Da dentro una caverna. Sì, perché ho l'effetto. Aspetta, me lo levo per parlare, perché l'effetto quando parlo dà noia. Eccolo, buono. Quando canto no. Okay. Buono. Ciao. Allora, funziona così oggi. Ciao a tutti. Funziona che... oggi c'ho un paio di amici che sono con me e se la cantano con me questa canzone. Questa canzone non la presentiamo manco perché già la conoscete, però vi presento i miei amici. Allora, un mio amico è Nico, che già conoscete. Buonasera. Eccolo là, bello Nico. Sono molto distinto, faccio quello. Ciao, distinto Nico. Della situazione. Buonasera. Così nessuno capisce che sono quello che ha fatto la rubrica prima. Lo stesso prima. Nico. Bravo. Di sì, sì. Wow. Basta, non lo dice. No, siamo non è lo infatti stesso. Sto preciso, non Bravo. Lo dico, nessuno lo capirà. Non sono quello. E poi? Il mio amico Nico, non quel Nico. E poi abbiamo la mia amica Arianna. Ciao, grazie. Ciao Arianna. Radio Wombat per questa calda accoglienza. Evviva. Oh yeah. Calda. Io sono emozionato perché non credo di aver mai avuto dei coristi. Mi sono comprato anche un pedalino apposta che fa i cori, perché io veramente non ci ho mai avuto nessuno che cantasse insieme a me. E a questa girata invece ho due amici che cantano insieme a me, quindi sono doppiamente casato. Grandi gioia. Siamo tutti e si attacca senza dire nulla, così a merda. Senza dire nulla. Intanto il pezzo lo conoscete, quindi fanculo. In un certo senso. Siamo, signor? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha fronte sulle rive lontane si risveglia la sete nel mattino trascinato dagli alberi. È il primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi per stendermi a sole. Per stendermi a sole. Quando sulla riva verrai, quando la burrasca al largo sparirà, col mattino tra gli alberi, nel primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Rimane in piatta e si abbandonano gli occhi asciugati dal sale. Per stendermi al sole. Rimane in piatta e si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi, il giorno che esce sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele risalendo dai fianchi, il giorno cresce sulle rive lontane. Alto nel mattino con la luce del sole, vento che si rompe tra le vele, sulla riva cadrò, sulla riva sei tu, per stendermi al sole. Ancora vive negli occhi le correnti del mattino che riprendono il mare. Corre dalla fronte tra i capelli che ogni giorno rivedi. Ancora vive negli occhi le correnti del mattino che riprendono il mare. E con la morte del cuore correrò per tornare dove un giorno rivive nel profilo degli alberi. E con la morte nel cuore correrò per tornare dove il giorno rivive sul profilo degli alberi. Ci sta, bravi. Evviva. Evviva. Bravissimi. Bravissimi. Sembra che ci se l'è fatta. Sembra. Questa era Stormi, Dio sono un cane. E... che bello detta così. Questa era Stormi, Dio sono un cane. Dio sono un cane. Sì, esatto. L'avevamo data la settimana scorsa, l'avevamo passata come canzone. Ci era piaciuta così tanto che l'abbiamo, cioè, che l'abbiamo voluta interpretare anche dell'album Die, l'ultimo album uscito di Io sono un cane. E niente, in conclusione di questa rubrichina vorrei insomma lasciare un po' di spazio alla mia cara Anna, che avrebbe un messaggio per il signor cane Io sono un, che nel caso non lo so, lo ricevesse. Via, vai. Caro Jacopo, è un grande sogno riuscire a suonare un tuo pezzo, a cantare un tuo pezzo. Ti adoriamo, soprattutto io in particolare sono innamorata di te. In caso ci sentissi, mandaci in caso fossi qua, mandaci la tua il mio numero squadra è di tre persone. Mi ribacchio. Se torni a Firenze facci un pronto nel dubbio. Ti amiamo. Se no posta Wombat io ce l'ho in Siberia, appunto. E ci manda anche lui Totomorti. Sì, mandaci la tua squadra di Totomorti, io sono uno. Grazie ragazzi. Grazie, stato... grazie signor cane. Arrivederci. È stata proprio una dichiarazione d'amore. Una dichiarazione d'amore, ma quanto è brutto il verbo poverizzare? Tremendo, no, tremendo. Mamma mia, io comunque, un po' che lo sento tipo tutti i giorni, una volta al giorno sento la parola coverizzare. Pensare ai cellulari, agli smartphone. È tipo sì, che sì, mette sì, la cover sopra. Sì. Brutto, brutto. Vorrei dire una cosa. Pizzo ha detto che non ha mai avuto coristi, non è vero, nei parcheggi insieme quando cantavamo, io ero il suo corista, quindi in realtà... Guidino, io rimedieremo presto, prossima puntata, massimo quella dopo. Ok, sì, sì, io ci sto, sai. Promessa? Promessa. Media, io e te insieme. Sì, vabbè. Sì, sì. Gli facciamo sentire cosa facevamo nel parcheggio la notte. Che detta paura così. Di questa affermazione. Cosa facevate nel parcheggio? Racconta, ragazzi, racconta. Cosa facevate? Quello lì, com'è la zona prima nella 500 blu? Nella 500 blu. Guarda, quello. Aiutati dalle tenebre. Sì. Eh sì, già, senti, facciamo ma, queste cose. Bene, non vediamo l'ora, non vediamo l'ora di sapere. Senti. Dimmi, caro. Noi andiamo avanti. Imperterriti. Bene. C'è il nostro tasso che forse ci vuole leggere qualcosa. E... Però nell'attesa che possiamo andare alla sigla, certo. Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principi a avviare il culturale. Seduti per Dio! E ora... E ora... legge Tasso. Quel giorno c'era la lezione di religione. La laica lesse commossa la nostra letterina Babbo Natale e con gli occhi lucidi disse: «Bambini, oggi è un giorno bellissimo, è Natale in tutto il mondo e ricordatevi che Gesù non è nato solo in Palestina, ma in ogni angolo della terra». La voce era rotta dalle lacrime. «Orsù», continuò, «fate una bella riflessione su questo concetto». Subito scattò in piedi il Ferraggiolo Paolo ed esordì: «Se Gesù fosse nato in Olanda se lo sarebbe comprato Berlusconi». Ferraggiolo Paolo non riuscì a finire la frase che intervenne capabomba: «Se Gesù fosse nato a Mogadiscio l'ultima cena sarebbe riuscita a farla solo con gli aiuti della FAO». Anche la Forgioni volle partecipare al dibattito: «Se Gesù fosse nato donna allora sì che sarebbe stato fantastico. Pensi, signora maestra, Gesù che dice alle sue discepole: ragazze, vi farò pescatrici di uomini. Wow, che sogno!» La laica, con calma, salì sull'ambulanza del San Pietro, dicendo: «Ho l'abbonamento». Vedemmo allontanarsi i lampeggianti blu. Quando tornò, 40 minuti più tardi, ci trovò carta e penna alla mano, ognuna a scrivere la sua su Gesù nel mondo, sorvegliati dal bidello. Questo era il tema di San Vittorio. Se Gesù fosse nato a Düsseldorf, in Germania, le cose sarebbero state ben diverse. Dal Vangelo secondo Beckenbauer. In quel tempo la Germania era infestata da una tribù di deficienti che avevano delle strane abitudini. Si rasavano il capo, vestivano di pelle nera e indossavano scarponcini da danza anfibi. La loro fede si rifaceva a un simpatico ventennio che aveva lasciato un sacco di bei ricordi. Ora vivere in compagnia di questi ameni ragazzoni avrebbe fatto vomitare chiunque, figuriamoci Gesù che era ebreo. Avvenne che Giuseppe e Maria erano emigrati a Düsseldorf e trovarono alloggio in un container. «Come si sta qua?» chiese Giuseppe. «Da Dio», disse il gestore di nome Himmler. «Lei ne è proprio certo, vero?» chiese Giuseppe, perplesso e preoccupato. «Certo, questo campo profughi è come le terme di Saturnia, solo che ha un altro nome, terme di Mauthausen». E lì in un barbecue nacque Gesù e subito sul container si fermò una stella cometa a sei punte e Giuseppe disse: «Oh cazzo, ci hanno già trovato!» Difatti, nel giro di poco tempo vennero i magi skin, Do, Ber e Man, con i loro doni, cherosene, benzina e zolfanelli, e dissero: «Qua è facile, tutto paglia, si fa in un attimo». E Maria disse: «Con questa maniata di deficienti in giro avrebbe avuto più possibilità di cavarsela se fosse nato capitone nel periodo natalizio». Ma Gesù se la cavò e arrivò a 33 anni, quando nei pressi del fiume Reno si imbatté in un uomo di colore detto Lazzaro. L'uomo era stato steso da una banda di ragazzotti pelati. Gesù guardò l'uomo e disse: «Lazzaro, alzati e cammina, ma veloce, anzi Lazzaro, alzati e corri!» E Gesù e Lazzaro cominciarono a scappare. «Ehi, ma noi riusciamo a correre sulle acque!» disse Lazzaro stupefatto. «È un miracolo!» «No, è la paura!» rispose Gesù. Ora avvenne che Gesù e i discepoli andarono a cena nella birreria da Adolf Forno a Legna. Il titolare era un ometto magro con il ciuffo unto, baffetti quadrati e una paresi a braccio destro. Come li vide entrare, cominciò a preparare la graticola. Ordinarono birra e Gesù disse: «Prendete e bevetene tutti, alla salute, amici!» Fino a che a mezzanotte stanno tutti ai piedi di Pilato, ubriachi come irlandesi. «Luca», disse Gesù, «alzati e cammina». «E chi ce la fa?» rispose Luca. «Non mi tengo in piedi». «Pietro», disse allora Gesù, «tu sei Pietro, con questa pietra Tu sei Pietro, vero? Cazzo, non ti riconoscevo. Nel mentre Simone dormiva russando. Tommaso, disse Gesù, vieni a vedere, Simone si è addormentato. Ma va, non ci credo. Come non ci credi? Te lo dico io. Ma fa alla finita. Poi Gesù prese il pane, lo spezzò, ci mise dentro i wurstel e disse, ragazzi, passatemi i crauti. E in questo entrò un gruppo di giovani col capo rasato. Guarda, disse Gesù, un gruppo di calvi, un calvario. E giù tutti a ridere come matti. Sei tu Gesù di Düsseldorf? Chiese il capo dei caimani del Reno, questo era il nome della banda. E tu chi sei? Ponzio Pilato? E giù tutti a ridere. Mi chiamo Helmut, rispose il nazi serio. Velmut deve essere un aperitivo cinese, disse Gesù. Tutti ridevano e ridevano. Gesù, nonostante fosse ubriaco, era sempre molto spiritoso. Helmut, per spaventarlo, gli fece vedere la svastica ritagliata tra i capelli. Cos'è? Chiese Gesù. La cicatrice della lobotomia. Fate attenzione, ho la testa così rasata, prendete freddo, mettetevi qualcosa, un profilattico, per esempio. Le risate si moltiplicavano. Non farci perdere la testa, disse il nazi. E Gesù rispose, sarebbe una circoncisione. L'ilarità era alle stelle. Helmut, che in preda all'ira sembrava l'incrocio tra un caimano e un uovo sodo, fulminò Gesù con lo sguardo. Gesù guardò Helmut e lo fulminò, e basta. Ora Hans, un altro dei caimani del Reno, si fece avanti e Paolo con la spada gli tagliò un orecchio. Fermo, Paoletto, disse Gesù. Non sai che chi di spada ferisce lancia la prima pietra sul cammello nella cruna del coltivatore della vigna? Vabbè, mo i proverbi non me li ricordo, non devo bere così. Poi musso a compassione per Hans, era rimasto senza un orecchio, per miracolo gli fece cadere pure l'altro. Purtroppo i caimani del Reno presero Gesù e di lui non si seppe più nulla, e dopo 4 giorni Gesù non resuscitò, perché appena gli passò la sbornia si accorsero che quei 4 deficienti lo aspettavano ancora lì fuori. Mangiapane Umberto scrisse invece questo tema: se Gesù fosse nato in America le cose sarebbero state diverse. Dal Vangelo secondo Tex Willer. Ora in una mangiatoia al 63° piano accadde che nacque un bambino. È nata una stella, dissero gli angeli, organizzarono un gruppo rock, i Charles Angels, che cominciò a cantare Jesus Christ Superstar. Sì, sì, sì, sì, we wish you are. Non mi ricordo bene le parole. Le televisioni si scatenarono, la CNN fece una diretta fiume dal titolo Mezzanotte a Betlemme e dintorni, mentre nel pomeriggio mandavano in onda trasmissioni per bambini tipo Cantando con Cristino, in diretta concorrenza con la NBC che trasmetteva Lo Zecchino d'Oro, Incenso e Mirra. Anche i rap magi portarono i doni, sex, drugs e rock and roll. Venne anche un fabbricante di pantaloni che si inginocchiò e cominciò a pregare. Oh, Lewis, fammi la grazia. Questo non è Lewis, questo è Jesus, disse Giuseppe. Oh, scusate, ho sbagliato jeans, rispose il fabbricante e si dilegò. E la folla sembrava impazzita. Madonna, ha avuto un figlio, gridavano tutti. Forse smette di cantare. Ci vollero 3 edizioni speciali del TG per far capire che si trattava della Madonna. Anche da Hollywood vennero in visita. Il primo fu Woody Allen e tutti dissero: tu è meglio che stai lontano dal bambino. E i protagonisti del presepio divennero stars. Il bue diventò il testimonial di uno spot di Bentine con lo slogan: io ce l'ho profumato e caldo. L'arcangelo Gabriele fu ospite fisso di un talk show per 3 anni. San Giuseppe diventò il conduttore di una trasmissione televisiva di vendita di mobili all'asta. Maria e Gesù Bambino furono contattati per fare la pubblicità dei pannolini Arca, pannolini della Madonna, il cui slogan suonava più o meno così: pannolini Arca fermano anche il diluvio universale. Gesù crebbe e fece miracoli. Ora era sabato, giorno di festa, il programma prevedeva che Gesù alle 19:30 avrebbe camminato sulle acque preceduto dal lancio dei palloncini, scoppio di mortaretti, botte a muro e tracche e l'esibizione del gruppo delle 3 maggiorette Gaspar Melchior e Baldassar Band. L'orchestra della CIA già intonava: chi fa la spia non è figlio di Maria, non è figlio di Gesù, quando muore va laggiù. Gesù esordì dicendo: beati i poveri! È anche comico, diceva la folla ridendo a squarciagola. Dai che vai forte, urlavano i fans. Poi Gesù si imbatté in un uomo morto. Lazzaro, disse, alzati e cammina. E Lazzaro si alzò e Gesù scoppiò a ridere. Lazzaro, mi scusi, ma che fai? Vestito da topolino. È lo sponsor, disse Lazzaro. E le scarpe a tennis? È uno sponsor anche quello, rispose Caifa, il produttore. Anzi, signor Gesù, lei dovrebbe dire: Lazzaro, alzati e cammina comodo con le scarpe Paradise. E non guardi Lazzaro, guardi la telecamera. Ricominciamo da capo. E la folla rumoreggiava: bis, bis. Lazzaro rimorì e Gesù, sconcertato, disse: Lazzaro, alzati e cammina comodo con le scarpe Paradise. Ma questa volta il miracolo non riuscì e Gesù fu costretto a fare il numero con Gaetano, ma il risultato non fu lo stesso. Gaetano, alzati e cammina, suona abbastanza male. Gesù morì il 2 marzo, poco tempo dopo quell'episodio. I giornali scandalistici dissero per overdose come una vera rockstar, ma i veri motivi non sono mai stati appurati. Non poté risorgere dopo 3 giorni, ma fu costretto a risorgere il 14 marzo alle 18:30 perché lo sponsor aveva comprato l'esclusiva dell'avvenimento. Pancreas, trapianto del libro cuore. Giobbe Covatta. A letto, tasso. A letto, tasso. A letto, tasso. Una cosa del genere, secondo me. A letto, tasso. A letto, tasso. A letto, a letto, tasso. Well, you've got your diamonds, and you've got your pretty clothes, and the chauffeur drives your car, you let everybody know. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father'd be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Man took her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, we'll have some others, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Super lettura. Super. Come sono solito. Spisciato. Senti, di quell'evento si diceva prima, sì, che ci sarà in polveriera il giovedì 26. Sì. Abbiamo avuto notizie. I nostri inviati hanno portato... I nostri inviati sono andati e hanno scoperto che si svolgerà così. Dal pomeriggio ci sarà sempre questo alla polveriera. Sì, sì, sempre. Live painting negli spazi dei muri. Dei pannelli, okay, che saranno installati. Dalle 18.30 ci sarà un'assemblea per iniziare a parlare di una rete esatto, sul Kurdistan. Esatto. Che poi, ad ora non c'è. Ad ora non c'è, quindi c'è un'organizzazione anche che si sta muovendo. La proiezione di un documentario che si chiama Yazidi Self-Portrait Experience. Potrebbe essere anche Experience in francese, non lo so. Sì. Di Fabiana Scioni, e ci sarà Fabiana Scioni che è la, l'autrice di questo, quindi, documentario, quindi anche un dibattito. Si poi con lei chiedere un po', esatto, proprio l'esperienza di fare questo documentario, cioè cosa ha visto, no? Esatto, una cena preparata direttamente dalle famiglie curde presenti all'iniziativa. E alla fine concerto Ivanovska. Wow, vola tutto. Bella, bella, bella. Wombat. Aia. Wombat, sì. Senti, andiamo avanti. Andiamo avanti. Sì, dai, andiamo avanti. E abbiamo la nostra meravigliosa Anita. Che ci... Stupenda Anita. Ciao ragazzi. Ciao. Che ci porta qualcosa. Ci viene a raccontare. Ci viene a raccontare e noi siamo felicissimi di questo. Ciao Anita. Ciao. Oggi vi parlerò di Radio Alice. Ah, oh, ok. Nacque a Bologna in una soffitta di due locali di Via del Pratello numero 41 nel febbraio del 1976, servendosi di un trasmettitore militare. Fu il punto di riferimento del movimento antagonista bolognese. Radio Alice inventò un nuovo tipo di comunicazione, divenne uno strumento di produzione culturale da parte di tutti. Oltre alle istanze politiche, alla musica, si leggevano libri, comunicazioni sindacali, poesie, liste della spesa, commenti ai fatti del giorno, dichiarazioni d'amore, favole della buonanotte, utilizzando spesso la diretta telefonica. Le trasmissioni si aprivano e si chiudevano col brano Lavorare con lentezza di Enzo Del Re. L'unica regola di Radio Alice era: tutto deve basarsi sulla creatività e sulla spontaneità. Non ci deve quindi essere alcun tipo di filtro o di censura o struttura organizzativa dietro. Lo slogan era: dare voce a chi la voce non l'ha avuta mai. Tutto questo fino all'11 marzo del 1977, quando la polizia, durante uno scontro tra studenti, uccise lo studente Francesco Lorusso, disarmato militante di Lotta Continua. In seguito a questo episodio, diffuso subito dalla radio, parte della città insorge riempiendo le strade e ci furono violenti scontri. Radio Alice decide di continuare le sue trasmissioni senza censurare le telefonate e i commenti di nessuno. Viene così accusata di dirigere la rivolta. Nella serata del 12 marzo la polizia entra nella soffitta di Via del Pratello 41, arrestando i presenti sulla base di accuse infondate e distruggendo gli impianti per le trasmissioni. Tra i fondatori ne ricordo alcuni come Giancarlo Vitali, Luciano Capelli, Roberto Bozzetti, Franco Berardi. Concludo leggendovi, dopo 40 anni dalla sua fondazione, una parte della traccia del primo giorno di trasmissione di Radio Alice. Buongiorno, lunedì 26 gennaio. Ieri nevicava. Stanotte c'era la luna e il 31 sarà piena. Siamo sotto il segno dell'acquario e i nati in questo giorno sono tendenzialmente azzurri. Spiccata tendenza agli scioperi felici. E qui siamo sempre a Radio Felice, nella nostra tana piena di esseri strani. Un quantitativo di megahertz di tipo acquario, occhi un po' stralunati e i nostri impianti sono sperimentali quanto noi. E ora vi lascio con White Rabbit dei Jefferson Airplane. Oh ragazzi, all'aiuto Anita praticamente. Esatto. Esattamente. E, ci siamo scordati un altro evento. Abbiamo deciso di darle piano piano. Piano piano, piano piano. Finché, sì. E, domenica 29. Polveriera, sì. Sempre. Machine Funk. La sera, sì, Machine Funk, com'era? Rebel, non lo so, non me lo ricordo. Expect Resistance. Resistance. Bravo. Grazie, Andrea. E vari, un sacco di artisti, di musica, quindi andate, andate, andiamo. Andiamo, andiamo, assolutamente. Oggi mi sembrava che il un po' uno dei fili conduttori della puntata è stata appunto la migrazione. E una nostra carissima amica e ascoltatrice, Agnese, ci aveva chiesto un pezzo di un artista che si chiama Bonobo. Bonobo, sì. E l'album si chiamava Migration. Migration. Siamo dei coglioni. E quindi ce ne siamo scordati. La prossima volta io direi che lo possiamo mandare, anche se stava bene forse anche in questa puntata. Che dici? Sì. Ok. Quindi chiediamo scusa. Sì. E vi invitiamo a mandarci pezzi che volete ascoltare. Ah, tra l'altro sì. Nuova iniziativa, nuovo grande tra l'altro sta già accadendo così in automatico. E quindi? Quindi vi invitiamo continuare farlo a continuare. E poi a mandare sempre tutte le cose, tutto morti, le ricette per Kate, no? Tutte cose. Senti, ma fai un'altra cosa. Apposta Wombat, caccia in Siberia. Net. Sì, un'altra cosa? Che è questa, la nona puntata. Sì. Nove come, se l'ha detto? No, non ti preoccupare. Le nove muse. Secondo me è anche la nuova puntata. Come 9 è il numero di casacca del nostro bomber Tasso. Ah, già. Che adesso che adesso ci fa in soldoni. Sì. Me la riparato. Soldoni. Tasso, com'è oggi? No, guarda, oggi è terribile. Stavo a letto, a dormire, beato nel mio mondo. Sento squillare il telefono. Più o meno mi sveglio, avevo un cerchio alla testa e manco te lo sto a dire. Mi rigiro tra le coperte, aspettando che il telefono smetta di squillare. Ma niente, quello insiste. Mi alzo, bestemmio e vado a rispondere domandando: ma chi cavolo rompe le scatole a mezzogiorno con tutta questa pressa? E chi era? Un operatore di un call center che voleva propormi una nuova tariffa telefonica. Ma ti rendi conto? E cosa vi siete detti? Ma nulla di particolare. Sono stato molto pacato, riflessivo, anche perché ero ancora mezzo addormentato. E quindi, tranquillamente, l'ho mandato direttamente a cagare. A lui, alla sua famiglia, a chi gli ha dato il lavoro. Così, anche tanto per farlo stare in compagnia, non da solo. Ma come? Ma perché? Ma come perché? Ma intanto partiamo dal fatto che se voglio cambiare tariffa mi informo, mi muovo per conto mio. Ci sta pure un'infinità di pubblicità a giro su queste cose. Ma poi, ma lo sai cosa fanno questi? Praticamente questi se ne stanno intere giornate lavorative con le cuffiette in testa, il computer da una parte, con i nominativi per telefonare ininterrottamente, a leggere e rileggere ininterrottamente sta cazzo di offerta finché manco loro sanno più cosa stanno dicendo. Ma manco una scimmia si metterebbe a fare una cosa del genere. E come vanno a dritto, se gli replichi, manco ti ascoltano, ripartono da capo e ti ripetono tutto, e manco per bene, che per convincere ad accettare sono disposti a farti credere pure che Cristo è morto dal sonno. E occhio, mai e poi mai dir di sì, farsi scappare sta parola, il sì. Perché questi, o per malizia o per stupidità, capiscono e stanno accettando e fanno partire la pratica. Fastidiosi, meschini, ma andate a coltivare la terra, rendetevi utili. E quindi? Quindi nulla. Io ormai li uso come antistress. Cerco di essere pragmatico. Li infamo, li mortifico, così io mi sfogo e cerco di rilassarmi. E magari loro due domande su cosa stanno facendo se le pongono. Anche se ci credo poco. Poca fiducia. Vabbè, dai. Ci rivediamo la prossima volta. Magari ti telefono prima. Senti, come diceva Novello Novelli, ragazzi, fateci mente locale. Che telefonate a fare? Piccioni viaggiatori! Beh. In soldane! Che diavolo sei tu? Mi chiamo Ash. reparto ferramenta. Well, I wake up in the morning, look at my clock. It's way past noontime, no, I'm late for work. Tell me, what have I done wrong? And nothing go right with me, must be I've been smoking too long. Well, I go to find me some breakfast, but I ain't got no food. Take me a shower, but the water don't feel no good. Tell me, what have I done wrong? And nothing go right with me, must be I've been smoking too long. I got opium in my chimney, no other life to choose. Nightmare made of hash dreams, got the devil in my shoes. Tell me, what have I done wrong? And nothing go right with me, must be I've been smoking too long. Well, when I'm smoking, put my worries on a shelf. Don't think about nothing, try not to see myself. Tell me, what have I done wrong? And nothing gone right with me, must be I've been smoking too long. Well, in this blues I'm singing, there's a lesson to be learned. Don't go around smoking unless you wanna get by. Tell me, what have I done wrong? Ain't nothing go right with me, must be I've been smoking too. Ain't nothing go right with me, must be I've been smoking too. Everything gone wrong with me, must be I've been smoking too long. Rieccoci. E anche per oggi abbiamo sparato a zero. Completamente, sì. Sì, sì. Tabula rasa davanti a noi. Tabula rasa davanti a noi, sì. Senti, dove andiamo a parare? Andiamo a parare verso... siamo verso la fine. Sì, stiamo giungendo alla fine, ahimè. Purtroppo non abbiamo una ricetta per la cena. Però... No. Abbiamo proposto comunque una merenda che va avanti ore nella preparazione, quindi aspettate a questo merenda. Punto di praticamente ci mangiare lo stesso tempo e fare la caponata. Esatto. E quindi salutiamo anche la Kate che a giro per o forse a casa, chissà, insomma, non c'è, non è qui con noi, l'aspettiamo la settimana prossima, assolutamente. E quindi, come al solito, andando verso la conclusione, ci sentiamo, chiediamo qual è il detto del giorno. I nostri inviati hanno chiesto e inviati. Ci hanno riportato, sì, come sì. Al solito, insomma. Cosa succede fra un poco? Alla fine del 10 di gennaio? La merla! La merla, esatto. Ci sono i giorni della merla. Che cosa sono i giorni della merla? Allora, i giorni della merla intanto... Scusate, sono un po' malato perché appunto il freddo della merla che si avvicina mi ha... Ti senti di merla? Mi sento di merla. Grazie, sto di merla. Sei il migliore. Sto di merla. Allora, gli ultimi tre giorni di gennaio, va bene? 29, 30 e 31... Tradizionalmente si dice che sono i giorni più freddi dell'anno, si dice ancora, però poi in verità dice che ho letto cose che smentiscono, sì, di brutto questa cosa. Quella verità, ti piace di più? Sì, allora, no, appunto, la leggenda della merla ce ne sono tanti, io poi ve ne posso raccontare, penso un paio, due o tre che sono le più carine, secondo me. Su cosa? Perché, allora, intanto è un proverbio, è un detto che ho visto che... Ho scoperto che è utilizzato un po' in tutta Italia, va bene? Quindi ogni parte d'Italia ha un po' la sua storia. Comunque, le più fighe sono... C'è una leggenda che dice che praticamente la merla, va bene? Era un pezzo di artiglieria enorme che doveva passare praticamente il Po, va bene? In tempo di guerra non vi erano ponti e quindi era praticamente impossibile trasportarlo. So dove vuoi andare a parare. E durante questi riuscirono a farlo durante gli ultimi tre giorni di gennaio perché il Po ghiacciò. Non sono riuscito a trovare la data di questo evento. Comunque qualcosa deve essere successo, perché c'è un'altra storia che parla della merla, non in quanto un pezzo di artiglieria, bensì una nobildonna seicentesca, che appunto anche lei si ritrovò in... La signora Merla probabilmente. Aveva una discreta artiglieria, sì, probabilmente. Sì, probabilmente una discreta artiglieria. Doveva attraversare il Po, non sapeva come fare, per l'appunto passò di lì. E a fine gennaio il Po era ghiacciato e lei riuscì a attraversare il fiume indenne. È anche vero che lei, quanto sarà pesata? Sì, magari una nobildonna se andava a girare una carrozza. Mi domando, un pezzo d'artiglieria pesantissimo, cioè il Po deve ghiacciare fino al fondale. Un pezzo d'artiglieria pesantissimo, sì. Quindi mi convince di più la signora Merla. Ma quanto coraggiosi se hanno portato il pezzo d'artiglieria, perché se per sbagli. Lasci lì. Ma ti sei giocato il pezzo d'artiglieria, perdi la guerra. Pesissimo. Altrimenti c'è un'altra storia che viene raccontata riguardo a questi giorni, e praticamente dice che ci fu un inverno, cioè, anni, tantissimo tempo fa, tanto tempo fa, c'era questo merlo, va bene, questa merla, anzi, una merla, che a gennaio aveva molte difficoltà a trovare, a reperire il cibo per i suoi piccoli, no? Che erano, insomma, il freddo, la neve copriva tutti i prati, copriva tutte le sementi, tutto, non riuscivano a sfangarla. E all'epoca, a gennaio, aveva 28 giorni. Oh mamma. Va bene, era un mese di 28 giorni. Quindi un anno appunto la merla disse a gennaio, al mese di gennaio, disse: oh pallino, ma qui, cioè, non ci si fa più, dai, facci, forza, passa, fai, muoviti, fatti una mossa, si arriva a febbraio e poi o meno si trova a mangiare, la svoltiamo, esatto. Gennaio, merdaiolo, disse: no, col cazzo, ti fa un piacere, ma non ci penso nemmeno, io sto buono qui con 28 giorni, e ti arrangi, fa come vuoi. Insomma, la merla, dopo un sacco di stenti, ce l'ha fatta, tutto sommato. Ce l'ha fatta, poi ha affrontato la primavera, l'estate, bla bla bla, fino a ripresentarsi di gennaio. Al che dice: vabbè, quest'anno ci arrivo preparata, che fa una bella scorta di semente, mi ha detto nel nido, lì, tutto, che ha fatto una riserva incredibile di roba, precisa per i 28 giorni di gennaio, per non patire fame, va bene? Tac! Uscita il 28 gennaio, va dal mese e gli dice: oh, sai che pallino, t'ho fregato stavolta, perché io ho fatto la scorta, col cazzo sono stato male, sono stato tutti qua in panciol, fantastico, è stato un mese bellissimo, un culo a te. Gennaio, la merdaccia, se ha detto: sai che, si fa uno scherzetto, si allunga di 3 giorni, da quest'anno ne fa 31, voglio vedere come fa. E la merla rimase fregata, effettivamente, sì. Perché poi fin tutt'oggi, insomma, tuttora è gennaio, è 31 giorni. Gli ultimi 3 giorni di gennaio, infatti, non sappiamo come fare. Noi. No. Voi infatti, come pensate di affrontare gli ultimi 3 giorni di gennaio? Io dormendo. Veramente sarà difficile. Mai sfidare gennaio, un po' una merdaccia. Ma questo è Esopo, secondo me. E dice: mai sfidare gennaio. Mai sfidare gennaio, sì, esatto. Ragazzi, chiudetevi in casa a giocare a PlayStation, a fare quello che volete. Non fai niente. Gli ultimi 3 giorni non uscite. Nulla. Merendine, nulla. Soldini, tutto, ma non uscite. Rimandate tutto, bene? Questo è il mio consiglio. Grazie. Aspetta. Grazie, Lillo. Aspetta. Lillo è un dramma. La prossima puntata di Fuoco alle Polveri è lunedì 30. Lunedì 30? Che si fa? Si fa la spe pause. Bene. Ciao Lillo. Ciao. I could be a rambler from the Southern Dial. Don't pay taxes, 'cause I never file. I don't do business that don't make me smile. I love my aeroplane, 'cause she got style. I'm a treetop flyer. I'll fly any cargo that you can pay to run. The bush league pilots, they just can't get the job done. You got to fly down into the canyons, you don't ever see the sun. And there's no such thing as an easy run for a treetop flyer. I fly low, I'm in high demand. Go 15 feet over the Rio Grande. I blow the mesquite right up off of the sand. Seldom seen, especially when I land. I'm a treetop flyer. Born tree line, you might be all right. Treetop flyer. So I'm coming home, I'm running low and faggots. I promised my woman this is gonna be my last. I get the ship down, I tie her fast. And then some old boy walks up and he says, hey son, we'll make some fast cash. Treetop flyer. Well, there's things I am in this thing. Smuggler, and I could get shot. I ain't going to die, I ain't going to get caught. You see, I'm a flying fool in an aeroplane, it's just too hot, I'm a true top flyer. Born survivor. Mai fidarsi di un autista d'autobus nudo. Sacro santo. Quella. Io volevo fare una puntualizzazione in Cina. Cioè. In soldoni. Insomma. Just your opinion, man. No? Just a sos opinion. Sì, esatto, no. È l'opinione tassica, diciamo, e basta. Però io vorrei fare. Diciamo. Un approfondimento così successivo, diciamo. Vuoi dire la tua? Vorrei dire un pochino anche la mia così, eh? Io ce l'ho più con quel, cioè con i padroni di quelli di quelli del consente, alla fine, con chi gli fa fare quel lavoro, più che con loro dello specifico, così, insomma. Ma più che quello, io suggerirei una strategia. Quando vi chiamano, voi rispondete esattamente come rispondereste a una persona X, tipo, non so, a vostra mamma, a un vostro amico, una cosa del genere, della serie, non so. Si salve, vuole aderire alla nuova offerta Windows? Sì, sì, sto molto bene. Te è tutto a posto? E vedete cosa è che succede. A me è successo di bellissimo sempre. Sempre una cosa nuova, ma praticamente è lo stesso effetto di se gli dici vaffanculo. Tanto finisce la telefonata dopo due secondi. Però ti confondi, è troppo più divertente. Cioè, se, a parer mio, cioè, io ho cominciato già da anni a fare questa cosa qua. Cominciate anche voi, secondo me è un mondo di call center più felici. E magari si mettono a ridere anche loro. Voi più o felici. Sbraitare, o sbraitare o... sbraitare puoi sbraitare. No, la via tassa. La via tassa, ok. La mia mia invece è rispondere tipo: sì, aspetta, ma che ce la faresti a passare a comprare il pane anche? Anche se la via grippia. Magari, non lo so. E quello... ma... riattacca magari, capito? Cioè, sì. Dipende, o magari ti risponde, mi è capitato anche che mi rispondesse. Vabbè, insomma, cioè, provate e poi non lo so, magari raccontateci, ve lo mandate apposta a Wombat, così, oppure cioè, venite qua, ce lo raccontate, non lo so. Cioè, insomma, si possono aprire scenari molto interessanti, ve lo assicuro. Okay. Insomma, fidatevi, via. Guarda, io vi dico una cosa. Dici una cosa. C'è stato mio cugino che lavorava al call center con la Sky. Vedete che è arrivato a un certo punto, lui ha chiamato una signora, questa signora ultra ottantenne, che è andata a succedere. La signora se lo scambia per il figlio di quello che gli portava la frutta. Quindi gli fa: uè, Ivan! Sì, sì, sì! E quando vieni con le banane? Mio cugino che la stava chiamando. Praticamente, ha usato questa strategia, sì. Praticamente, inconsapevolmente. Ancora mio cugino sta pensando se quella là sta ancora aspettando le banane, o se ha capito che magari lo stava trollando, o se è che era così rimbambita appunto da... pensare che fosse Ivan il fruttivello. No, no, buono, buono, buono. Ok, quindi c'è esperienza. Chi ha adottato. Si è già aperto metodo. Il dibattito, diciamo, sì, dopo sì. Dopo Insoldoni, dopo Insoldoni. Oh, sto sentendo un bomber qui, Assolutamente, scherzi. Nemico, ti sei fatto un nemico, so. Cari ascoltatori, vi è scoppiata una guerra. Numero 9. E noi ce la gusteremo. Guarda, che il numero 9 è un bel numero. È il tasso. Dio, buono, me la inzeba lui. Ok. Ok, noi siamo praticamente, abbiamo praticamente finito. Mi è venuto in mente minuti. Prima che diceva Anita di Lo Russo, di Francesco Lo Russo, che era stato ucciso appunto in un corteo. E da pochi mesi il collettivo QA di Bologna e la casa editrice Red Star Press hanno istituito un premio di laurea per qualsiasi tesi triennale che affrontasse i temi della conflittualità sociale, del movimento operaio, delle migrazioni, in tutti gli atenei, cioè una tesi triennale già discussa, ok? In tutti, cioè non c'è limitazioni di ateneo, tutti gli atenei del mondo, insomma. Che appunto verrà dato poi un premio che è intitolato appunto a Francesco Lo Russo, è per questo che stavo dicendo questo. E questo premio sarà la pubblicazione con la casa editrice, la presentazione poi a Bologna in varie situazioni della tesi triennale. A me interessava anche come appunto l'idea di andare a cercare tra le tesi, quindi tra le ricerche che fanno gli studenti e che sono guardate praticamente da nessuno, lette da nessuno, trovare lì all'interno degli studi, dei pensieri di lotta e movimento, insomma. Assolutamente. Quindi non è legato strettamente all'Ateneo di Bologna, no. Ma è una cosa, quindi sì. Libera a tutti voi. E tra l'altro si può ancora mandare, penso, la tesi. Il bando è ancora aperto. È ancora aperto fino a fine gennaio, leggevo adesso. Ok. Viva. E a questo punto mi sa che Giappone non gliela posso mandare. No, gliela puoi mandare, mi spiace. Però c'era conflittualità sociale. Prova allora. Però devo averla già discussa, Anzi. No. Senti, okay. Ci salutiamo tutti? Sì, salutiamo tutti. Ringraziamo chi è venuto qua a darci una mano a fare questa bella puntata e ci sentiamo. Oggi puntualissimi, Puntualissimi, siamo stati bravi. Ci sentiamo settimana prossima. Wombat. Fuoco alle polveri. Go have a Paul Berry. Radio Bomba. Dammi un po' di zucchero, baby.